quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. E tutti convocati per un pomeriggio che è ricco di notizie, voci, indiscrezioni, qualcuna anche clamorosa. In ordine sparso ci sono i deferimenti per il calcio scommesse che manderanno a processo il Genoa, la Lazio, il capitano della Lazio Stefano Mauri con l'accusa durissima di doppio illecito sportivo, e più tardi ne parleremo con l'avvocato Grassani, legale del Genoa e di Milanetto. Poi c'è Cavani che sta per firmare col Paris Saint-Germain, dove due ore fa Leonardo ha ufficializzato le sue dimissioni, che sono clamorose anche se annunciate. E poi la Roma che è a un passo dal centrocampista olandese Strootman. Oggi c'è il primo giorno della Juventus campione d'Italia. Insomma, c'è davvero tanto nella giornata di oggi. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati. Se volete seguirci su Twitter c'è ovviamente anche il basket, con Datome che sbarca nel mondo dell'NBA. Noi però partiamo dal calcio, partiamo dalla Juventus. Buon pomeriggio a Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Juventus che mi sembra ricominci da dove aveva terminato o anche un po' più avanti. Questa mattina un coro di consensi sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. C'è la notizia della firma di Ogbonna, che in realtà arriverà nelle prossime ore, e c'è questa sensazione di uno strapotere assoluto della Juventus in Italia. Ma al momento sì, direi che, tenuto conto di quello che è stato il mercato fino adesso della Juventus e il mercato delle altre dirette concorrenti, direi che la Juventus sta un passo avanti, era già un po' avanti, quindi diciamo sta un passo e un passettino avanti alle altre, però non dimentichiamoci mai che il mercato finisce praticamente tra due mesi, finisce nei primi giorni di settembre, e di qui in avanti possono succedere ancora tante cose, sia in entrata che in uscita. Insomma, io direi che in questo momento non si può che dare un giudizio parziale di che cosa è successo, di che cosa sta succedendo. Bisogna aspettare, ecco, io credo che vedrete che ci sarà una riequilibratura del campionato, delle forze del campionato, anche se oggettivamente la Juventus è molto avanti. Mi sembra, direttore, che si debba aspettare anche a capire chi c'è dietro la Juventus. Il Napoli parte oggi, sta per arrivare la notizia della definizione della cessione di Cavani. Napoli che non ha ancora capito bene che strada prendere, ma ha tempo. Lo stesso vale per il Milan, che sta per vendere Robinho e poi dovrà reinvestire quei soldi. Vedremo se in Ljajic o in un difensore, si parla di Ranocchia. In questo momento non si vede chi può essere l'anti-Juventus. Io dico che insomma il massimo è sempre un po' quello, il Milan, il Napoli, l'Inter, soprattutto se Tohir sarà in grado veramente di garantire un'iniezione di denaro di un certo tipo. Io credo che l'Inter, che comunque aveva già una struttura buona, non buonissima, ma buona, potrà in qualche modo anche lei recitare una parte. È chiaro che penso al Napoli con 60 passa milioni di euro da investire, penso insomma a una società che era già messa bene, che ha un tesoro enorme da poter spendere. Penso che il Milan non possa rimanere così, perché, ripeto, Gagliani per me prima o poi riuscirà a mettere a segno non un colpo ma un paio di colpi che renderanno comunque il Milan competitivo. Per come mi sta muovendo mi piace molto la Fiorentina, che avendo acquisito Gomez e insomma avendo fatto un lavoro di un certo tipo può veramente, se ci sarà una congiuntura di eventi positivi, recitare un ruolo importante, più incisivo rispetto a quello dell'anno scorso, dove non ci dimentichiamo per lunghi tratti la Fiorentina ha offerto dell'ottimo calcio. Sì, sul mio personalissimo podio del mercato, arrivati alla data del 10 luglio e quindi per quello che può valere, al primo posto c'è proprio Gomez alla Fiorentina, poi certamente Tevez Juventus, anche per quanto è costato. A proposito della Juventus, si ferma qui o Jovetic è davvero un obiettivo, oltre che essere diventata oramai una questione di principio? Ma io credo che la Juventus in questo momento abbia due altre priorità. Una è sicuramente quella di definire l'operazione Ogbonna che è lì, ma non è ancora, non ci sono ancora le famose firme. È un tormentone. Ma fino a quando non ci sono le firme, io credo che tutto sia passibile di cambiamenti. Però mi spingo un po' in là e dico che Ogbonna è praticamente fatto. Poi l'altra priorità è trovare un esterno di una certa consistenza che consenta, ad esempio, a Llorente di rendere per quello che deve rendere. Insomma, Llorente è un giocatore abbastanza statico, molto alto, ha bisogno di traversoni dalle fasce. In questo momento forse le corsie esterne sono un po' carenti nella Juventus. Poi eventualmente io penso che ci potrà essere margine, ma dico eventualmente, per una ciliegina sulla torta, che potrebbe essere Jovetic o potrebbe essere qualcun altro, però bisogna spingersi in avanti nei tempi. Io penso che questa sarà un'operazione, se sarà fatta, da fine agosto, sì, perché prima devono essere messe a posto delle altre situazioni. Sì, sì, mi sembra che la priorità numero uno di Marotta e Paratici in realtà adesso sia vendere. Non sarà per niente semplice, e lo dimostra anche il fatto che il primo a partire potrebbe essere Giaccherini, che è un giocatore che credo a Conte dispiaccia lasciare andare, però in qualche modo la Juventus deve anche rientrare degli investimenti fatti, e quindi se il mercato chiede Giaccherini, alla fine Giaccherini partirà, visto che in questo momento di offerte per gli altri mi sembra che non ce ne siano. Ma io credo che anche per quello che è stato pagato, 8 milioni, e per quello che è stato in qualche modo rivalutato, comunque la cessione di Giaccherini, che a mio avviso è una cessione dolorosa, perché Giaccherini era uno di quei jolly, di quei rincalzi che non rompevano mai le scatole, quando venivano chiamati in causa davano comunque un loro contributo, e poi è stata una delle stelline della Confederation. Beh, io credo che comunque sia un sacrificio indispensabile, la Juventus dovrà farne altri se vuole finanziare il suo mercato. Io credo che Giaccherini sia il primo, poi ce ne saranno altri, sicuramente uno o due attaccanti, sicuramente Beceglie se accetterà di andare via. Insomma, per adesso ci sono solo state entrate nel mercato della Juventus, ci saranno sicuramente delle uscite e anche qualche sacrificio doloroso, ma indispensabile. E sarà quello il compito più difficile. Io ricordo il numero per chiamarci in diretta, 800 24 00 24. Per chiudere, Vittorio Regia, direttore di Tutto Sport, oggi è l'ennesima giornata nera per il calcio italiano, la notizia dei deferimenti per Lazio Genoa e Lecce Lazio. Erano ovviamente deferimenti annunciati, però fa sempre specie leggere le accuse, il doppio illecito sportivo che viene ad esempio contestato a Stefano Mauri, che è il capitano della Lazio, che fino a qualche mese fa era nel giro azzurro. Sono passati 408 giorni dall'arresto di Mauri e Milanetto. C'è anche chi in queste ore, credo legittimamente, commenta: finalmente si arriva al processo sportivo. Beh sì, c'è grande tristezza, devo dire che ogni estate veniamo accompagnati da qualche storia che non ha niente a che fare con l'agonismo, con lo sport, ma un retrogusto piuttosto malmostoso e amarognolo, e non dico che ci abbiamo fatto il callo, però fa molto meno scalpore rispetto a qualche anno fa. Io credo che la giustizia si muova con una certa lentezza, sarebbe stato meglio se tutto ciò fosse stato risolto prima. Siamo alla resa dei conti, vediamo cosa succederà. Di sicuro non sono buone notizie e di sicuro non è nulla che faccia bene alla nostra immagine. Io credo, e poi ti saluto, che scollinata quest'ultima salita, scollinato quest'ultimo filone di questa inchiesta lunghissima, probabilmente sarà poi arrivato il momento di mettere mano a una riforma della giustizia sportiva, ad esempio dell'istituto della responsabilità oggettiva. Oggi i club che sono finiti nel mirino sono, oltre al Lecce, il Lazio e il Genoa, probabilmente anche di questo rapporto tra giustizia sportiva e inchiesta della giustizia ordinaria, perché evidentemente ci sono delle incompatibilità di tempi, oltre che di strumenti a disposizione. Hai assolutamente ragione, io credo che bisogna assolutamente riformare la giustizia sportiva, bisogna farlo in fretta, archiviamo insomma questa brutta storia, poi mettiamoci seriamente mano e non solo per far prendere aria alla bocca. Grazie Vittorio Regia. Grazie a voi. Grazie a Vittorio Regia, direttore di Tutto Sport. Io ricordo ancora il numero per dirci la vostra in diretta: 800 24 00 24. Chiamate dopo il traffico, parleremo della vicenda dei deferimenti per Lazio e Genoa, 408 giorni dopo l'arresto di Mauri e Milanetto. Stiamo parlando di oltre un anno. Questi erano deferimenti annunciati, sono arrivati dopo una stagione in cui soprattutto Mauri è stato un protagonista in campo, e ora fa discutere sia il deferimento sia la tempistica. Tutti convocati. Intanto la notizia è che il procuratore di Cavani è in viaggio verso Parigi, dove andrà a chiudere anche gli ultimi dettagli del passaggio dell'uruguaiano al Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain in cui ancora qualche ora e poi non ci sarà più come direttore generale Leonardo, che questa mattina ha rassegnato le dimissioni. La vicenda è quella nota della lunghissima squalifica per le proteste esagerate verso un arbitro in una gara della stagione che si è appena conclusa. Pensate, Leonardo era stato squalificato in un primo tempo fino al febbraio del 2014, poi fino al giugno dopo l'appello. Leonardo, che in polemica con questa sentenza ha deciso di dimettersi, ma prima ha detto arriverà alla firma di Cavani, perché vuole chiudere questo che è l'affare dell'estate, un affare da oltre 60 milioni di euro che porterà il Napoli a poter fare un mercato, io credo, interessante, un mercato da vera rivale della Juventus, a patto di non perdersi poi ad esempio dietro nella scelta di due top player in attacco, quando nel modulo di Benitez ne giocherà soltanto uno. Apriamo la pagina di quello che è successo questa mattina per quanto riguarda i deferimenti. 8 giocatori, 8 tesserati e 3 club. I club sono Lazio, Genoa e Lecce, sono tutti deferiti per responsabilità oggettiva. Le partite sono 2 e sono Lazio-Genoa del 14 maggio del 2011 e Lecce-Lazio del 22 maggio 2011. Accuse pesantissime, soprattutto per Mauri, cui viene contestato un doppio illecito sportivo, che significa, in caso di condanna, una possibile condanna anche superiore ai 3 anni e mezzo di squalifica. E poi ci sono Milanetto, all'epoca giocatore del Genoa, Cassano, Gervasoni, Zamperini, Rosati e Ferrario. Tutti andranno a processo a partire dal 24 luglio, in modo da arrivare a una sentenza entro la fine di agosto. Poi in autunno ci penserà il TNAS a scrivere la parola finale su quest'ultimo filone dell'inchiesta del calcio scommesse. Siete in tanti che fate ragionamenti sulla tempistica. Ripeto, 408 giorni dopo l'arresto di Mauri e Milanetto, siete in tanti a chiedere anche che cosa potrà succedere adesso, che cosa rischiano Lazio e Genoa, quali possono essere le penalizzazioni per i club, quali possono essere le squalifiche per i calciatori. Nel caso della Lazio, sottolineo, bisogna stare attenti anche alle norme dell'UEFA, che se condannata danno la facoltà all'UEFA di negare le iscrizioni all'Europa League. In quel caso, pensate, toccherebbe addirittura alla Roma. A tutte queste domande proviamo a rispondere con l'aiuto dell'avvocato Mattia Grassani, che è il massimo esperto italiano di diritto sportivo e in questa vicenda è anche il legale del Genoa e di Milanetto. Buon pomeriggio, avvocato. Buon pomeriggio a voi. Non c'è nessuna novità, niente che non fosse atteso, almeno a livello di previsione della vigilia. Sono arrivati questi deferimenti. Mi sembra di poter dire che era tutto abbastanza scritto, almeno da quello che pareva essere l'orientamento della Procura federale per il Genoa, che è il caso che la interessa direttamente, ma anche per la Lazio. Forse l'unica novità è che ci sono entrambe le partite che fanno parte di questo filone e non soltanto Lazio-Genoa, come sembrava. Effettivamente, in questo caso possiamo dire che i giornali hanno anticipato l'esito dell'indagine nella fase istruttoria con indicazione quasi precisa e azzeccata dei soggetti deferiti. C'è una partita in più, che è Lecce-Lazio, ma nel suo complesso la previsione fatta dai media è stata confermata dai deferimenti notificati questa mattina dalla Procura federale. L'ambiente e l'ambito nel quale i motivi del deferimento si muovono sono assolutamente quelli previsti e annunciati, nel senso che per quanto riguarda la posizione di Omar Milanetto del Genoa, ma credo anche per le altre società e tesserati deferiti, nessun elemento nuovo viene cavalcato, viene valorizzato nel deferimento e sono tutti atti ed emergenze provenienti dall'attività d'indagine della Procura della Repubblica di Cremona. Quindi un deferimento largamente annunciato, i cui contenuti non si discostano in alcun modo dall'attività d'indagine e dall'impianto accusatorio condotto dal procuratore della Repubblica di Cremona di Martino. Ecco, Milanetto ha avuto modo in passato spesso di dichiararsi estraneo a quanto gli veniva contestato, questa è la posizione anche in queste ore? Assolutamente sì, ho parlato con il giocatore come ho parlato con la società Genoa, le due posizioni sono strettamente legate l'una all'altra, ovviamente perché il Genoa risponde a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato di Milanetto, che è l'unico tesserato del Genoa deferito con riferimento alla partita Lazio-Genoa, e la sua posizione è quella di totale estraneità, documentata, supportata da una serie di prove che già in tempi non sospetti, molto prima dell'arresto di maggio, Milanetto aveva fornito alla Procura federale durante i suoi interrogatori, che sono stati condotti nella primavera del 2012, ma che purtroppo ad oggi non hanno portato ad un procedimento, ma ad un deferimento dal quale ci dovremo ovviamente difendere. Ma il giocatore è assolutamente sereno, combattivo, determinato a dimostrare la propria innocenza nel dibattimento. Ecco, l'accusa per Milanetto e per gli altri è quella più grave, cioè quella di illecito sportivo diretto, cioè di aver alterato l'andamento e il risultato delle partite, nel caso di Milanetto di Lazio-Genoa. In questi casi par di capire, seguendo la casistica delle ultime due estati, se provato l'illecito porta a delle squalifiche superiori ai 3 anni. Per i tesserati il solo avere tentato un illecito sportivo, qualora ovviamente questo tipo di comportamento fosse provato all'esito del dibattimento, comporta la sanzione minima di 3 anni. Se c'è anche l'aggravante della consumazione, come in questo caso viene contestata dalla Procura federale, ovviamente la squalifica può essere anche di entità superiore. Cosa rischiano invece i club? Nel caso cosa rischia il Genoa, che ha una partita che viene contestata per responsabilità oggettiva? La casistica e la dosimetria utilizzata dalla Procura federale nelle richieste di condanna e dagli organi di giustizia poi nella valutazione dei deferimenti prevede che in caso di illecito solamente tentato ci sia un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi ovviamente nel campionato in cui questa sanzione è afflittiva, qualora l'illecito sia consumato 2 punti per partita qualora appunto venga dimostrata il raggiungimento dell'obiettivo e quindi l'effettiva alterazione, quindi il rischio è questo, 2 punti a partita. Il Genoa essendo coinvolto in una sola partita al più rischia, ma ripeto stiamo parlando di fantascienza per quanto riguarda la nostra posizione, 2 punti di penalizzazione. Quindi lei ritiene anche sulla base delle esperienze passate in questo momento che per il Genoa non sia percorribile e per Milanetto la strada del patteggiamento? Si è molto discusso anche l'anno scorso su questa scorciatoia per ottenere degli sconti. Questo è un istituto molto utilizzato, forse anche abusato in certi casi. Fin dall'inizio di questa indagine noi ci siamo confrontati con Milanetto, con il Genoa, circa questa ipotesi che è stata assolutamente scartata e respinta al mittente in maniera netta e decisa, proprio perché lei prima ha parlato di scorciatoia. Il patteggiamento è uno strumento al quale normalmente ricorre chi dal dibattimento ritiene di poter ricavare dei rischi e dei pericoli, non chi si ritiene ed è in grado di dimostrarlo, si ritiene in grado di dimostrarlo assolutamente innocente. Quindi escludo nella maniera più assoluta che ci possono essere, tanto per Omar Milanetto quanto per il Genoa, ipotesi di patteggiamento. Le faccio un'ultima domanda da esperto di questa materia. Lei ha parlato del rischio di penalizzazione di 2 punti per il Genoa, che è coinvolto in una partita. Per la Lazio le partite sono 2, seguendo la casistica dobbiamo sommare 2 punti e 2 punti e fare banalmente 2 più 2, 4, o poi esistono dei meccanismi differenti? Questo ovviamente è un argomento che andrebbe affrontato con l'organo dell'accusa, cioè la Procura federale, che rassegnerà le sue conclusioni all'esito della requisitoria e delle richieste in dibattimento. È ovvio che laddove ci sia una pluralità di partite il rischio sanzionatorio aumenta fino ad essere anche raddoppiato o comunque aggravato rispetto a chi è definito per una singola partita. E poi si apre tutta la partita della partecipazione eventualmente a manifestazioni dell'UEFA, perché ricordiamo esiste una norma che prevede la possibilità di esclusione da parte dell'UEFA di club che siano in qualche modo coinvolti in fatti di illeciti sportivi. Questo è un potere discrezionale che spetta alla UEFA ed è riconosciuto sia dallo statuto della UEFA sia dal regolamento delle singole competizioni europee, quindi sia Champions sia Europa League. Venne affrontato già nel caso del deferimento del Napoli per la vicenda Gianello Grava Cannavaro, e ovviamente in questo ambito la UEFA è sovrana di decidere quello che ritiene più opportuno. Insomma, non è un meccanismo che scatta in automatico. No, è una facoltà che la UEFA ha tenuto conto del caso concreto, del rango dei soggetti coinvolti e della tipologia di illecito che viene accertata. Grazie all'avvocato Grassani. Grazie a voi. Spiovente di Veloso, conclusione e palla in rete, il gol di Criscito. Sì, ma è stato deviato da Floro Flores, secondo me. Non ha festeggiato nessuno comunque. No, no, beh, insomma. Questo è anche abbastanza strano. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Fa discutere il deferimento di Mauri, di Milanetto, e per responsabilità oggettiva della Lazio e del Genoa. Chiede un amico da Roma al 349 238 6666: lei ritiene normale che dopo più di un anno la Lazio e Mauri siano stati deferiti per illeciti sportivi e che contestualmente abbiano potuto qualificarsi all'Europa League? No, non lo ritengo normale, c'è evidentemente un ritardo della giustizia sportiva, però c'è anche un'impossibilità a scavalcare i tempi della giustizia ordinaria. Le carte che riguardavano Mauri della Procura di Cremona sono arrivate, quelle definitive, nelle scorse settimane. Addirittura fino a ieri non si sapeva se nei deferimenti Palazzi avrebbe potuto inserire anche la partita tra Lecce e Lazio. Anche questo dovrà far parte della riforma della giustizia sportiva. E poi c'è chi chiede se con le sentenze a fine agosto Mauri potrà giocare la Supercoppa italiana, che è in programma il 18 di agosto. La risposta credo sia no, soprattutto in caso di squalifica anche davanti alla commissione disciplinare, perché entro fine agosto arriverà anche la sentenza d'appello, poi in autunno ci sarà il TNAS. Però lo scenario per Mauri è molto simile a quello di Conte di un anno fa, e Conte a Pechino fu costretto a restare in tribuna. 800 24 00 24, partiamo da Caltanissetta. Maurizio, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Io volevo ricollegarmi proprio a quelle che sono state le sentenze ultime sul caso Mauri. Volevo sapere da lei, ma perché le società non rischiano la Serie B quando invece nel 2006, per illeciti che poi non sono stati assolutamente comprovati, la Juve addirittura doveva essere mandata in Serie C e dovette patteggiare la Serie B per evitare situazioni che tutta Italia dicevano gravissime, no? Dico, come mai? Cos'è successo alla giustizia sportiva? Si è resa conto di aver combinato un disastro nel 2006 e adesso ci va con i piedi di piombo? Perché mi ricordo che 3 gradi di giudizio furono affrontati in una settimana, Sì, grazie a Narducci, a Auriggio. Ma furono, mi perdoni Maurizio, poi la lascio completare. Nell'estate del 2006 fu riscritto addirittura in parte il codice di giustizia sportiva per accorciare i tempi, però era una situazione diversa. Ad esempio, in questo caso Genoa e Lazio sono state deferite per responsabilità oggettiva, e quindi mai, nemmeno nel 2006, ma nemmeno in passato, era prevista la retrocessione per una responsabilità oggettiva. Prego Maurizio. Sì, e quando venne trovato Preziosi con la valigetta con i soldi, e quando furono regalati i Rolex agli arbitri. Cioè, sì, ma difatti lei mi sta citando nel caso di Preziosi il caso di un coinvolgimento diretto di un presidente che è il rappresentante legale di una società, quindi non parliamo più di responsabilità oggettiva ma di responsabilità diretta, e quindi questo vale tuttora, ed è il caso del Lecce ad esempio un anno fa. Poi è evidente che si è abbassata in maniera notevole l'asticella. Lei pensi che cosa accadeva negli anni 80 ad esempio, quando bastava il sospetto di una telefonata per mandare in Serie B una società, se c'era il sospetto di una combin, di una partita venduta? Evidentemente anche questa è una cosa che andrà riscritta per evitare di cadere nel ridicolo. Alessio dalla provincia di Lucca, buon pomeriggio. Alessio? C'è qualche problema di collegamento, allora cerchiamo di recuperare sulla linea Alessio. C'è chi scrive su Twitter che la valutazione di Ogbonna è decisamente al di sopra del suo valore. Ogbonna viene pagato certamente tanto dalla Juventus, perché alla fine saranno 15 milioni di euro, però io credo sia stato fatto un investimento che completa il pacchetto della difesa, e può fare un piacere anche a Prandelli. C'è chi al 349-238-6666 scrive anche che in questo modo Ogbonna si è garantito la convocazione per i mondiali del Brasile della prossima estate. Io non so se si è garantito la convocazione, di sicuro Ogbonna avrà un ruolo importante nella Juventus, darà spazio e respiro a Chiellini, a Bonucci, a Barzagli, e se farà bene sarà un convocato naturale per la nazionale in Brasile. Alessio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Ecco, sì, no, parlando di riferimenti di oggi, sì, ritorno alla mente un po', si è parlato poco ovviamente perché la squadra è poco conosciuta, ma il Bari per il secondo anno consecutivo è stato penalizzato, tra l'altro ha parteggiato due partite e un punto, e poi rischia squalifica Caputo 3 anni e mezzo, e però questo appunto diversità tra la giustizia sportiva e il tempo della giustizia ordinaria provoca che ogni anno una società si trova in difficoltà, o si fa un processo abbastanza breve e si paga quello che si deve pagare, se no ogni anno si ricomincia sempre con cose vecchie. Poi questa è una cosa del 2009 con società Bari, Treviso fallite, Salernitana fallita lo stesso. Sì, sono anche processi, Alessio, diversi, sono inchieste diverse, perché ha iniziato Cremona, poi ci sono state le inchieste di Napoli, poi è arrivata l'inchiesta di Bari. Io credo che con questi deferimenti probabilmente si sia esaurito l'ultimo filone che può interessare la giustizia sportiva, e proprio per questo ne parlavamo prima con il direttore di Tutto Sport, Vittorio Reggia. Una volta che si saranno fermate le bocce si potrà mettere mano una riforma del codice di giustizia sportiva, a ragionare sulla responsabilità oggettiva ad esempio, modulandola anche in maniera diversa, però a bocce ferme non si poteva fare prima di questi deferimenti, prima del processo che chiuderà quest'estate, dopo sarà il caso di farlo, e poi è difficile chiedere alla giustizia ordinaria di muoversi con tempi che siano compatibili con le attese di quella sportiva. Penso che ci dovremo abituare a queste attese. Penso ad esempio che si dovranno allungare i tempi della prescrizione sportiva. Parliamo di pallacanestro, Flavio Tranquillo? Buon pomeriggio Flavio. Gigi Datome in NBA, così sorridiamo dopo aver parlato di deferimenti e di cose brutte che riguardano il calcio, ha scelto Detroit. Ho letto ieri su Facebook che ha scritto: questo è il posto giusto per fare un ulteriore salto di qualità. Lo condividi? Ma condivido il fatto che abbia scelto Detroit, questa è sempre una cosa importante, è andato alla ricerca della miglior soluzione professionale per lui. Posso auspicare e augurargli con tutto il cuore che abbia visto giusto, però è importante che abbia fatto una scelta professionale, non si sia limitato a dire vado in un posto perché mi hanno chiamato, ha fatto proprio una scelta precisa. Adesso poi vedere quanto sarà quella giusta dipende un po' da lui, un po' dagli altri, un po' dalla fortuna, diciamo un terzo il cocktail. Sì, lui ha rifiutato un contratto da Memphis che era un contratto annuale, andava in una, sarebbe andato in una squadra certamente con delle prospettive diverse rispetto ai Detroit Pistons. Ho l'impressione che rifiutando quel contratto e accettando il biennale di Detroit abbia in un certo senso investito sulla sua carriera. Sì, è esattamente quello che ha fatto, pensa e credo che ne abbia motivi fondati, che questa sia una cosa che gli può aprire più spazio, che non sono solo più minuti e un eventuale secondo migliore contratto, ma anche, poi ripeto, l'NBA è una quantità molto poco certa, però visto a tavolino questa è una situazione in cui probabilmente il suo inserimento in una realtà NBA può essere più morbido e anche le aspettative dei Pistons, che vengono diciamo da qualche stagione non necessariamente irresistibile, possono essere all'inizio un po' più basse e possono favorire la gradualità di questo inserimento. Sì, intanto gli hanno già trovato il soprannome, ho letto, Gigi Shooter, un bel cartellino, un bel biglietto da visita. Ecco, poi se questo è il suo biglietto diciamo d'entrata, lo ha timbrato e che sia uno shooter, che sia un tiratore, non c'è dubbio. Adesso penso, spero e credo che sarà meglio per lui dimostrare anche di essere un player, cosa che sicuramente può essere. Senti, hai l'impressione che l'impatto sarà semplice? Oggi ho letto su qualche giornale che Datome soffrirà anche l'impatto tra il cambio fra una città bellissima come Roma e una che è molto meno bella come Detroit. Al di là dell'aspetto logistico e estetico dello sbarco nel pianeta statunitense, hai l'impressione che il suo impatto non sarà semplice con l'NBA? Ma io penso questo, che in generale, che per andare nell'NBA, venendo da un contesto come quello da cui viene un giocatore italiano che è stato in nazionale, che ha avuto in club importanti un certo tipo di spazio, ci vogliono due cose. Una, la volontà veramente di andare a misurarsi con quel mondo, al lordo naturalmente delle difficoltà, e l'altra una stabilità mentale, chiamala maturità, chiamala come vuoi. Io penso che lui abbia tutte e due, questa non è una garanzia di successo, però onestamente questi due elementi alla fine ti fanno superare cose anche più complesse da superare che non la effettivamente rilevante differenza architettonica tra Detroit Downtown e San Pietro. Sì, rispetto a chi l'ha preceduto, Bargnani, Gallinari, Bellinelli, è destinato a fare più o meno fatica, proprio per le sue caratteristiche anche psicologiche, quelle di cui parlavi. Diciamo che ha meno aspettative addosso dei primi tre, questa deve essere la sua carta, può stupire di più. La cosa importante è che non si fossilizzi nel ruolo di entro, sparo due tiri ed esco, che è un ruolo che nell'NBA oggettivamente esiste, perché questo alla lunga può essere invece non tanto facile da gestire. Tutti convocati. Pensa ad andare, poi torna indietro, Datome fino in fondo! Gigi, Datome! Super Gigi! Super Gigi! Mette collato sopra il tempo! What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys! What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Vuole andare da Datome, va lui in uno contro uno, si appoggia al tabellone con la mano mancina. Ancora una partita straordinaria per Datome, 21esimo punto per lui questa sera. E chissà se torneranno i tempi dei cattivi ragazzi, dei bad boys di Detroit, anni 80. Flavio Tranquillo, la buona notizia per noi italiani è che malgrado questo contratto Gigi Datome va agli europei, non lascia la nazionale. Secondo te è una scelta coerente con il momento, oltre che ovviamente è una scelta che fa piacere a pianigiani e a tutti noi? Assolutamente sì, è normale per una franchigia NBA che un proprio giocatore vada in nazionale, ed è molto più formativo giocare un europeo con un ruolo da protagonista e con ancora più aspettative addosso, proprio perché giocherà nell'NBA l'anno prossimo, che non stare a fare un allenamento specifico da solo, magari uno contro zero durante l'estate, posto che il lavoro uno contro zero durante l'estate è altrettanto fondamentale, però a livello di Datome è più formativo andare in Slovenia e giocarsela con i migliori del vecchio continente. Grazie Flavio Tranquillo. A voi. Grazie Flavio, venerdì, lo dico a tutti gli amanti della pallacanestro, avremo una sorpresa per voi, venerdì, non mancate, 800 24 00 24, Ludovico da Brescia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Volevo esprimere un parere sulla vicenda Cavani e Napoli. Secondo me sarà estremamente difficile per il Napoli, nonostante abbia 63 di euro a disposizione, costruire interamente un reparto, nel senso che la storia degli ultimi anni è piena, gente che ha speso tanti soldi, ma per costruire una squadra ci vuole tempo, pazienza e idee tecniche che continuano e si perfettano nel tempo, per cui credo che sarà molto problematico per il Napoli confermare il secondo posto, a meno che Benitez si scopra veramente un mago lì. Sì, io credo, Ludovico, lei ha ragione, però credo anche che il Napoli abbia davanti a sé una straordinaria occasione, quella di costruire una squadra che possa fare meglio del Napoli delle ultime stagioni. A me non piace ad esempio l'idea di Albiol come regista difensivo, è una riserva del Real Madrid e costerebbe uno sproposito, 10 milioni, allora se ci sono i soldi da investire ad esempio meglio investirli in un italiano come Ranocchia. A me non piace l'idea che il Napoli insegua due attaccanti di primo livello quando nel modulo di Benitez ne gioca soltanto uno, si scelga su chi puntare, Leandro Damião, Jackson Martinez, Dzeko, i soldi in questo momento ci sono, e poi una buona riserva. Però se il Napoli non cade in questi errori, l'occasione per fare una squadra forte, una squadra che possa competere in Italia con la Juventus, secondo me con quel budget a disposizione c'è, e Benitez può essere l'uomo giusto per costruire un progetto. Andiamo sulle strade del tour, Pier Augusto Stagi, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Pier, buon pomeriggio. Beh, oggi mi sembra un pomeriggio importante, uno di quelli decisivi per questo Tour de France. C'è la crono a Mont-Saint-Michel. Oggi alcuni giornali titolano è il match point per Froome. È davvero così? È assolutamente così. È una giornata che sorrida Chris Froome, ha la possibilità concreta di mettere al sicuro la sua maglia gialla, poi saranno problemi di tutti gli altri, perché sono tanti che hanno i problemi, sono tanti che sono venuti qua al Tour de France sognando di vincere la Grande Boucle. Il problema è che questi 33 chilometri estremamente ventosi ma anche estremamente piatti sorridono maledettamente a Chris Froome, che è uno che va molto forte in salita ma ancora più forte riesce ad andare a cronometro, quindi ha veramente un calcio di rigore bello, pieno da tirare, e speriamo che ci sia un portiere più che altro. Sì, fast and flat, veloci e piatti, così li ha definiti Chris Froome. Messi più o meno a metà tour, c'è anche il rischio che lo ammazzino definitivamente. Ho letto da qualche parte che si fa il conto, gli altri fanno il conto di poter limitare il distacco in 3 secondi al chilometro, stiamo parlando comunque di distacchi superiori al minuto e mezzo. Io non so chi potrebbe poi risalire da una condizione di classifica simile, e già parleremmo comunque di un risultato onorevole. Io credo che potrebbe esserci, me lo auguro, voglio essere un pizzico ottimista, che qualcuno potrebbe anche perdere meno di 3 secondi al chilometro, però quindi chiudere la prova con 30-40 secondi di gap dal Kenyotta bianco. Però è innegabile che la giornata di oggi è una giornata molto buona per Froome. E poi bisognerà vedere se riusciranno a mettersi d'accordo i vari Alberto Contador, Joaquin Rodriguez, Valverde, Quintana, Evans, Van Garden, sono tanti i corridori che in qualche maniera devono sia lottare per il secondo e terzo posto che provare, almeno provare, sulle Alpi a ribaltare la situazione. Il Team Sky non sembra insuperabile, sembra sicuramente vulnerabile, però bisogna essere coesi e estremamente forti, e soprattutto bisogna sperare che ad esempio corridori come Contador, che sono arrivati qua al Tour con una condizione non ottimale, nella terza settimana raggiungano veramente il top, perché se sono quelli che abbiamo visto fino ad oggi difficilmente faranno perdere questo Tour. In ogni caso, come si suol dire, la cronometro è la prova che ti mette a nudo, e quindi oggi vedremo, tasteremo con mano lo stato di salute di tutti, quindi anche dello stesso Alberto Contador. Se Contador sì, per Contador Pierre è un po' un'ultima chiamata, cioè se fallisce Contador oggi è difficile che possa anche pensare di rientrare sulle Alpi poi in un discorso di classifica che riguardi la maglia gialla. Il Contador è il corridore che ha maggior classe, maggior talento e maggiore esperienza, ha una storia che pesa e che garantisce per lui. Se oggi lui uscirà con le ossa, mi riferivo esattamente a Contador, l'uomo che potrebbe perdere meno di 3 secondi a chilometro, se lui oggi riuscirà a perdere 2 secondi, riuscirà a limitare nei 40 secondi, 45 secondi il gap, avrà sicuramente un'iniezione di fiducia e sarà il primo a inventarsi qualcosa per compaginare i piani degli Sky. Se invece oggi Contador ne uscirà a ossa rotte, allora credo che sarà, diciamo, il Tour potrà quasi essere finito. Sarà l'ultima settimana, sarà semplicemente una grande passerella dove si decideranno i secondi, i terzi e i quarti posti. Sì, mi pare di capire che lo scenario che si apre, che si può prefigurare, è quello di una situazione che esce dalla cronometro di oggi, che consenta poi qualche alleanza di strada contro Froome, contro il Team Sky, per provare sul Mont Ventoux, sull'Alpe d'Huez, a metterlo in difficoltà. Contador ha detto che i Pirenei non erano il terreno adatto perché non consentivano un vero e proprio attacco. La verità è che sui Pirenei lui ha perso. Non so se nei prossimi giorni i rapporti di forza anche in salita possano cambiare sulle Alpi, però tutto passa dai 33 chilometri di oggi che sono, decisivi. Grazie a Pier Augusto Stagi. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie Pier Augusto. Rispondo a un sms che è arrivato al 349-238-6666. La riforma della giustizia sportiva di cui abbiamo parlato non è il liberi tutti, nessuno ha parlato di liberi tutti. È evidente, Daniele da Treviso, che se le carte da Cremona arrivano adesso, Palazzi non può fare nient'altro che aspettare 408 giorni per produrre il deferimento di Mauri, però è altrettanto evidente che in qualche modo i tempi della giustizia sportiva dovranno adattarsi a quelli della giustizia ordinaria, altrimenti si rischierà poi di perdere dei pezzi di questi procedimenti per la prescrizione, oppure si rischierà di lasciare il sospetto in tanti che si siano usati due metri e due velocità diverse. Secondo me non è stato così, però la verità è che Mauri ha giocato un anno dopo essere stato arrestato, e adesso la giustizia sportiva dal 24 luglio ci dirà se era colpevole o no. Abbiamo finito qui, io ringrazio Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida, autore di questa puntata, un saluto anche da Giovanni Capuano. L'appuntamento domani a partire dalle ore 14.